24 di Giovanni Minoli. I faccia a faccia della storia. Oggi, per la serie dei faccia a faccia della storia, curati da Sara Tardelli, c'è un inedito Paolo Villaggio. Racconta la sua avventura di padre tra momenti di grande dolore e la scoperta della forza dell'amore. Paolo Villaggio, genovese, sposato con due figli. Dopo anni di vita normale come impiegato dell'Italsider di Genova, diventa uomo di spettacolo. Prima il cabaret, poi scopre che può rappresentare e presentare alla gente il ritratto di milioni di italiani. Il nome? Fantozzi. Una comicità a sfondo amaramente sociologico, autoironica, sconsolata. Gli italiani ridono di lui e forse non si accorgono che ridono di se stessi. Lui insiste e inventa Gian Domenico Fracchia, una comicità che lascia il sociale e riscopre le gag tradizionali. Ancora un successo mostruoso. Lui dice che lo appoggiano i meticci, cioè i protagonisti di niente, i milioni di fantozzi e di Fracchia che vivono nel nostro paese. Ma dietro l'attore c'è l'uomo, con i problemi di tutti e forse qualcuno in più. Un figlio, Pierfrancesco, ne ha preso con la droga, ma San Patrignano ha ritrovato la speranza, come tanti. Quello di oggi è il Paolo Villaggio cittadino e uomo, di professione padre. Intanto, come sta suo figlio? Mio figlio splendidamente, grazie. Le volevo chiedere una cortesia, io penso che lei me la possa fare. Cioè, in questo nostro incontro, può dire invece che droga o drogato, problemi di tossicodipendenza e tossicodipendente, è una cosa che gli aiuta molto. Un direttore di giornale di una testata molto autorevole, un giornale d'opinione, al quale ho domandato, mi scusi, perché scrive i drogati e non tossicodipendenti? E lui mi ha detto, caro Villaggio, non c'è nessun titolista che le può scrivere tossicodipendente perché è troppo lungo. E io ho detto, ma omosessuale lo scrive, perché sarebbe più comodo Frocio, no? Io penso che, mi scusi, penso che senta, possa essere molto utile. Mi sembra giusto. Senta Villaggio, lei un giorno parlando di sé ha detto: sono brutto, tronzo, antipatico, però faccio ridere, soprattutto quelli che mi somigliano, i nevrotici come me. Si riconosce ancora in questa definizione? Definitivamente, io penso che la comicità sia frutto di una sofferenza diretta, vissuta, intensamente sofferta, vissuta in prima persona. Ecco, ma che tipo di nevrosi è la sua? Ma la sofferenza di essere appunto brutto, anche stronzo, come lei dice giustamente. Il fatto che io abbia sofferto, sì, l'ho detto io, lo confermo, sinceramente lo sono anche. Io penso che se tu però aiuti anche gli altri, cioè a pensare che non sono loro soli a soffrire il consumismo, il malessere, la loro stronzaggine, fai un lavoro terapeutico e quindi gratificante. Rivolgendosi ai genitori dei tossicodipendenti, ha scritto sul Corriere della Sera: cari genitori, è la prima volta che scendo in campo cristianamente, avendo come unico obiettivo il mio prossimo. Ecco, è sempre lo stesso tipo di nevrosi che l'ha fatto scrivere. No, è la prima volta che scopro una cosa che mi piace molto, e cioè è la prima volta che mi muovo solo per gli altri, perché credo in questo momento di avere l'autorevolezza e la possibilità di aiutare veramente quelli che come me rappresentano in questo momento in Italia una minoranza. Ecco, ma e cristianamente vuol dire questo allora? Cristianamente vuol dire esattamente questo, cioè pensando proprio veramente di amare gli altri, di aiutarli. Quanto tempo fa si è accorto che suo figlio si bucava? 3 anni fa quando me l'ha detto. Mi ha detto, guarda che succede questo, e io che ho sempre pensato di essere un padre attentissimo, intelligente, che mi ero fatto una cultura, che avevo seguito, mi ero informato, una letteratura in casa su come ci si accorge eccetera, invece in realtà io non me ne ero accorto come tutti. E qual è stata la sua prima reazione? Panico, cioè, e poi grande colpa. Dio, non me ne sono accorto, perché non me ne sono accorto? E mio figlio mi ha aiutato, ha detto, papà non se ne accorge nessuno, mi ha detto. E quando suo figlio gliel'ha detto, lei cosa ha deciso di usare? Cioè la severità, la dolcezza, cosa ha pensato subito? Ho fatto tutti gli errori che voi, parlo soprattutto a voi che avete un problema come il mio, fate in questi casi, cioè si cerca di risolvere il problema in famiglia, si cerca di non dirlo in giro, si cerca di risolverlo in una maniera assolutamente assurda, cioè scappare al problema. Il problema, ve lo voglio dire, non è la droga, non è la tossicodipendenza, è solo un sintomo. Bisogna individuare un malessere molto più profondo e curarlo insieme ai vostri figli. Torniamo al rapporto col figlio. Lei ha cercato di capire? Io gli ho domandato perché, e lui mi ha detto non lo so perché, e mi disse una cosa che abbastanza indicativa, abbastanza sensazionale direi, perché era molto piccolo allora. Poi in genere chi ha problemi di questo tipo, e voi lo sapete, è molto più sensibile, sono figli belli, dolci, sono figli anche molto buoni, però molto fragili. Mi ha detto, sai qual è papà il mio problema? Che non so qual è il mio problema. E io ho cercato, con la solita autorità, come un rinoceronte cieco, di risolvere il problema. Avevo molti soldi allora, adesso non ne ho più, perché purtroppo lo sapete che un'avventura di questo tipo spazza tutto come un uragano. E ho cercato di risolvere il problema con cliniche di lusso, con viaggi di lusso, portandolo su Marte, se era possibile. Ma su Marte non si guarisce. Però. Ecco, a proposito del comportamento, lei adesso dice, con i figli appunto non drammatizzate, non piangete, non ricattateli, con guardate come soffriamo noi. Però dice anche, siate sempre durissimi. Niente debolezze, soldi o complicità di ogni genere. Ecco, ve lo confermo, guardate, no, non c'è assolutamente nessuna contraddizione. Cioè non drammatizzate, nel senso non caricate sulle loro già fragili spalle il guarda come soffro, perché è un problema in più. Per una creatura già sofferente, moltissimo, lo sappiamo benissimo e voglio che lo sappiano anche gli altri. Non sono dei criminali, non sono dei piccoli demoni, no, è gente che soffre moltissimo. Per quello che riguarda il poi siate durissimi? Il siate durissimi, lo confermo, siate sorridenti, non fate i poliziotti, non continuate a indagare, ti fai, non ti fai, ti sei fatto, non ti sei fatto, no, assolutamente, cercate di parlare veramente con loro, ma siate durissimi, quindi niente soldi, non fatevi manipolare e soprattutto non fatevi mai ricattare. Ecco, in ogni modo. A proposito di ricatti, se un figlio in crisi di astinenza tenta di commuovere, spaventa, minaccia di rubare, di prostituirsi, lei cosa consiglia di fare? Sorridere, fingere di non accorgersi del problema, veramente, mi creda, il più delle volte le crisi di astinenza sono simulate, sono dei sistemi molto vili, ma guardate che non è vostro figlio che parla in quei casi, è Mr. Hyde che c'è dentro di loro, sono dei sistemi molto biechi e vigliacchi per cedere, per ricattarvi, per squillarvi denaro. Siate durissimi! Quanto si è sentito colpevole di questa esperienza del suo figlio, se si è sentito colpevole? All'inizio completamente, poi personalmente. Adesso invece, le dico la verità, non mi sento più colpevole, ma sento di far parte di una cultura che è colpevole, perché il problema vero, l'ho detto, non è la roba in sé per sé, ma è una cultura che non ha capito il problema. La vera malattia di cui sintomo è la droga, è assolutamente una società che li ha criminalizzati, è una società che non ha capito assolutamente che hanno bisogno di amore. E l'esempio conta? L'esempio direi che conta moltissimo la prevenzione, conta moltissimo capire la sorte degli altri, ecco, per esempio interessarsi realmente, cioè chiarire che sono dei nostri figli che hanno bisogno soprattutto di amore. Cosa vorrebbe non aver mai fatto come padre? Per evitare quello che è successo, se c'è qualcosa. Che sì, certamente, io penso averlo fatto desiderare poco dagli obiettivi da raggiungere. Bisogna assolutamente motivare ogni regalo, non fate mai regali inutili e fateli soprattutto desiderare di diventare qualcosa, non aiutateli troppo. Insomma, fateli corazzare, fateli crescere. Senta Villaggio, lei però ha anche detto non delegate altri figli a medici, a psicologi, a ospedali, a cliniche, a stregoni, a agopunturisti, solo voi avete l'antidoto, cioè l'amore. Ecco, perché allora lei ha delegato Muccioli nel suo caso? Beh, perché non vi fidate degli altri, parlo di agopunturisti e medici, perché prima hanno poca competenza in materia, è che è un problema assolutamente nuovo, un terreno nuovo. Ho delegato Muccioli perché Muccioli è un fenomeno a parte. Muccioli è una specie di grande nave nella quale tutti sono sfuggiti a un naufragio e c'è un clima a San Patrignano. C'è il clima di una grande nave che è sfuggita a un naufragio e c'è un rapporto di grande gioia, cioè un gruppo di persone senza rapporto gerarchico, nelle differenze gerarchiche, che è sfuggito alla morte, cioè che hanno guadagnato una grande cosa, la vita. Quindi quello che conta in Muccioli è che è la somma dell'amore di tutte le persone della comunità. Parliamo di Muccioli, come è capitato che suo figlio è entrato a San Patrignano? Grande fortuna, lungo peregrinare, molti errori, gli errori che vi consiglio di evitare, quindi niente cliniche, niente ospedali. A Los Angeles mio figlio per strada è stato salutato da un ragazzo di Roma, che sta benissimo, che studia a San Diego. E mio figlio l'ha guardato, ma tu scusa non eri, perché tra di loro c'è naturalmente la curiosità di sapere come va a finire quella grande avventura, il grande tunnel. E lui gli ha detto San Patrignano. E io avevo un amico d'infanzia, Gianmarco Moratti, che è uno di quelli che si occupa di San Patrignano. Segnalazione, ho pregato Muccioli di prenderlo. Mio figlio ci è voluto andare, per sua grande fortuna. In questo processo contro Muccioli si parla molto però anche della violenza di questo metodo terapeutico. Lei cosa ne pensa? No, penso che giustamente, io ho conosciuto il giudice di Rimini, una persona decisamente molto intelligente. Il giudice deve applicare la legge. Le imputazioni sono violenza, sequestro. Si è molto fantasticato, c'è molta letteratura. Ecco, ma l'uso delle catene? L'uso delle catene fa parte del sensazionalismo della stampa. Ma è vero o non è vero allora? All'inizio Muccioli ha chiesto, solo su richiesta di alcuni ragazzi che volevano salva la vita, di essere legati. Ecco, ma catene benedette in un certo senso, ma solo una volta, in un momento eccezionale. Ecco, non c'è il rischio di arrivare poi ai lager? Tirare fuori il garantismo nel caso Muccioli è quasi un atto di teppismo. Io trovo che il problema della tossicodipendenza in Italia si possa risolvere non certo con la violenza, ma solo con l'amore. Cioè quando la cultura, cioè quando noi accetteremo l'idea che la tossicodipendenza è una semplice malattia, non è demoniaca, non è da criminalizzare, ma è solo una semplice disgrazia e non ci vergogneremo, avremo risolto il 99% del problema. Senta, non c'è questo pericolo, la mia fissa. No, Don Picchi, per avere tutte le obiezioni, Don Picchi e Don Ciotti del gruppo Abele di Torino hanno detto che in 15 anni loro non sono mai ricorsi a nessun metodo coercitivo perché la convinzione vale più della forza. Lei cosa risponde? Rispondo che tutte le comuni, e vale la politica dei 100 fiori, cioè vale qualunque metodo nel quale ci sia soprattutto molto, molto amore. Senta, parlando appunto di San Patrignano, l'onorevole Luciano Violante, comunista, ha detto che attorno al problema della droga si intrecciano delle banalità progressiste con le scemenze reazionarie. Lei come... Sono d'accordissimo con Violante. È d'accordo. Io penso comunque che qualche schiaffo che Muccioli può aver dato, schiaffo benedetto, sono quegli schiaffi che noi purtroppo, padri progressisti, non abbiamo avuto il coraggio di dare. Senta Villaggio, faccio una domanda brutale. In questi anni, mentre suo figlio si bucava, lei faceva ridere mezza Italia con i suoi film, le sue gag, le sue scenette. Come riusciva a farlo? Ma guardi, è la cosa che mi ha salvato di più. Prima ha riso anche mio figlio e penso di essergli stato molto utile. E poi penso che tutto considerato sia anche abbastanza retorico pensare che chi ha un grande problema non possa poi professionalmente funzionare. Anzi, le dico la verità, forse ho funzionato anche meglio. Senta, ma l'attore, che lezione trae da questa esperienza? Ma l'attore nessuna. Cioè il suo modo di far spettacolo cambierà? Ma io mi auguro di sì, nel senso perché mi piace anche evolvermi. Penso che tutto considerato sono cambiato io, ma non l'aspettavo, ne sono felice, penso di essere migliorato. Lei fino ad oggi ha fatto film a dozzine, se ne dovesse salvare uno dal diluvio, quale salverebbe, se c'è? Uno solo, Fantozzi. Beh, perché? Perché è quello che tutto considerato amo di più, è quello più esportabile, quello più bello. Lei ha dichiarato, il massimo che posso fare io, oggi cinquantenne, benestante, intellettuale, è di lavorare alla mia felicità. La pensa sempre così? Più che mai, anzi ho fatto una grande scoperta, la felicità degli altri, che potete provocare voi, sarà la vostra grande felicità. E voglio augurare buon Natale a tutti i genitori, soprattutto a quelli che hanno questo problema, e soprattutto a quelli, sa che ce n'è un gruppettino nella collina di San Marino che non può vedere i figli, perché sono dei figli con dei problemi, e allora li guarda la vigilia di Natale con dei binocoli e spera di vederli in buona salute. Mix 24, i faccia a faccia della storia. A Mix 24 vi propongo il faccia a faccia a Brigitte Bardot. Nel 1985 l'ho incontrata a casa sua, alla Mandraga, a Saint-Tropez. Si era ritirata da poco dal mondo dello spettacolo e si dedicava allora come oggi, a tempo pieno, alla difesa dei diritti degli animali. Signora Bardot, lei ha da poco compiuto i 50 anni. Gli ultimi 10 anni della sua vita li ha passati a occuparsi degli animali. Che bilancio fa di questa esperienza? Al solito. Per voi deve essere sempre tutto positivo o negativo? È un po' tutte e due, un po' positivo e molto negativo. Ma credo anche che sia una rotta talmente difficile, talmente lunga e soprattutto talmente nuova, visto che nel passato non era nelle abitudini, non era comune. E soltanto oggi comincia a esserlo, e quindi ci vuole del tempo. Allora bisogna essere pazienti, anche se io sono molto impaziente e trovo che i tempi sono troppo. Ecco, lunghi. Ma secondo lei, nell'opinione pubblica, nella gente, è cambiato qualcosa rispetto a questo problema? Lo spirito della gente, anzitutto, è molto importante. Nel passato l'animale era considerato da tutti come un oggetto, come qualcosa che rende servizio, che si usava e si gettava quando non serviva più. Adesso invece la gente si è resa conto che l'animale vive, soffre, muore, proprio come noi, e nella misura del possibile è necessario aiutarlo a vivere, perché l'animale è molto perseguitato, è veramente martirizzato dagli uomini. Brigitte, quando lei ha smesso di fare del cinema una decina di anni fa, qualcuno ha pensato che il fatto che si occupasse di animali fosse per farsi della pubblicità. Ecco, anche in una maniera diversa, che cos'è che adesso l'ha resa più credibile? Non ho avuto molto coraggio, questo lo devo dire, perché ho abbandonato un ambiente in cui ero una diva adulata da tutti per lanciarmi nella protezione animale. Mi hanno detto di tutto, mi hanno ridicolizzata, hanno detto che lo facevo per farmi pubblicità. Ma mio Dio, se c'è qualcuno al mondo, in tutto il mondo, che non ha bisogno di pubblicità, sono proprio io. Io sono sempre fuggita, ho sempre rifiutato la pubblicità ed è sempre arrivata a mio malgrado, e non sono stata certo io a cercarla, e soprattutto sulle spalle della sofferenza animale. Ma mio Dio, che orrore! Come si può immaginare una cosa simile? Allora, ho abbandonato un ambiente in cui ero una regina per inserirmi in un ambiente dove ero una persona come le altre, e per questo all'inizio sono stata ridicolizzata. Mi sono detta che, avendo scelto questa strada... No, non questa strada. Cagnolino. Beh, sì, dovevo andare avanti, perché succede nella vita che uno si sente impaziente, perseverante, ostinato nel battersi. Lei, se non lo sbaglio, all'inizio, con le cifre, con i dossier, non aveva molta confidenza, parlava più con le viscere, col cuore, e poi invece è stata creduta. Io parlo sempre con le viscere, con il cuore, con le emozioni, ma ho anche imparato a consultare i dossier. Certo, è molto importante, perché se si vuole diventare davvero credibili non ci si deve limitare a spiegare alla gente che gli animali soffrono, perché tutti sanno che gli animali soffrono, no? Lo si deve invece spiegare con i dati statistici, con le cifre alla mano, perché all'uomo occorre sempre spiegargli le cose, a cominciare dall'ABC, per fargliele capire bene. E visto che non sempre capisce il linguaggio del cuore, io ho imparato il linguaggio dei documenti. Signora Bardol, secondo lei sarà possibile un giorno una vera armonia fra l'animale e l'uomo? Ma un'armonia c'è fra l'uomo e l'animale all'inizio. L'uomo e l'animale sono fatti per dividere il nostro pianeta e vivere insieme. Solo che l'uomo ha assunto una tale potenza. L'uomo è diventato il re dell'universo, il re del pianeta, e crede di poter vivere da solo sul pianeta, distruggendo tutto il resto. È l'apprendista stregone che finirà col distruggere anche se stesso, soltanto che non lo sa. Essendo se pa. Ecco, ma esiste da qualche parte sul nostro pianeta un luogo che corrisponde a queste immagini che lei si è fatta delle cose belle, l'animale, l'uomo, la natura? Sì. E dov'è? A casa mia. E vuol dire che vivere alla Mandrag, cioè in questa sua villa così chiusa? No, cerchiamo di capirci. Io ho fatto in modo che il mio universo, che sia questa casa o altre case in cui vivo, diventi un piccolo paradiso, come ce ne sono altri al mondo. Un luogo dove gli animali stanno bene, dove soltanto pochissimi esseri umani possono entrare. Coloro che oltrepassano la porta io li amo davvero. Sono felice di riceverli, ma ce ne sono molto pochi. Casa mia è un luogo dove ci sono piccioni, capre, montoni, che non verranno mai uccisi. C'è anche una mucca che viene dal mattatoio e che non verrà mai uccisa. Ci sono gatti, cani, che naturalmente non saranno mai né uccisi né abbandonati, ma è un tentativo, certo, un piccolo tentativo rispetto all'immensità della Terra. Brigitte, ma come può esprimere dei giudizi così severi sull'umanità, sulla gente, sugli altri in generale, sul mondo di fuori, dal momento che ha chiuso la porta e non può vedere cosa accade fuori? Ma proprio perché ho visto che ho chiuso la porta. Senta, lei poco fa mi ha detto: facciamo un piccolo bilancio dei suoi 50 anni. Ecco, non ho 18 anni. E se ho aspettato 50 anni per dire tutto questo e soprattutto per fare tutto questo, è chiaro che non l'ho fatto alla leggera. Prima di comprendere, di giudicare, anche se poi non giudico, semmai constato, che è anche peggio. Ecco, ci ho messo 50 anni della mia vita, penso che sia molto, e questa visione che si è andata accumulando in me, certo non è molto carina nei confronti dell'umanità. Io non penso di esprimere giudizi, semplicemente non mi va di vedere gente, non mi va di mescolarmi alla gente. È il più grande lusso oggi, l'isolamento. Sì, è il più grande lusso. È questa solitudine che a volte mi fa paura quando sono di cattivo umore o sono un po' triste o per qualsiasi motivo mi sento giù. Sono io che l'ho scelta. Sì, io preferisco la mia solitudine alla promiscuità di tutta quella folla, quella massa di mediocri. Però ripete sempre che è sola, infelice, depressa. Senti, ma io non sono un superuomo, una superdonna. Io sono un essere umano che può avere dei momenti di stanchezza. Ma io sono una persona forte, una persona solida, una persona incredibilmente coraggiosa, ve l'assicuro. Glielo dico perché lo penso e perché sono sicura che è vero. Perché sennò da quel dì che avremmo lato tutto. Però, malgrado questo, ci sono dei momenti di disperazione. E allora in quei momenti uno si chiede com'è possibile che l'essere umano faccia pagare così cara la vita all'animale. Ma sì, tutte quelle sofferenze. E lei lo sa certamente meglio di me. Tutti quei massacri, quelle torture, le foche stordite con una bastonata e poi scoiate vive. Insomma, a un certo punto uno perde dei colpi. E anch'io perdo dei colpi, non sono mica il padre eterno. In questi momenti in cui perdi colpo ti senti male. Non sai più dove andare a sbattere la testa, non sai più, trovi tutto orribile. Ecco, ma in questi casi, in uno di questi momenti, lei ha bisogno di comunicarlo alla gente? Ma niente affatto. Ma se in quei momenti, in un momento di caduta, lei venisse a intervistarmi, io non le parlerei come sto facendo adesso, con grinta. Sono fatta così, se ho un momento di crollo e lei mi dicesse dobbiamo assolutamente fare un'intervista, mi troverebbe a pezzi, disperata. Io le direi che è tutto uno schifo, che la vita è un sacco di merda, che non ne posso più, e poi basta che vado tutto in vac. Ecco che cosa verrebbe fuori dall'intervista. È tutta una questione di momenti. Brigitte, ma è vero che lei ogni tanto parla con le piante? Sì, io preferisco parlare agli alberi. Il fatto di prendere fra le braccia un albero, un tronco d'albero così, nelle proprie braccia e stringersi a lui, dà una sensazione di forza, di potenza, fantastiche, rassicurante. E poi io parlo agli animali, parlo agli alberi, parlo alle piante, ai fiori. Non li coglierei perché potrei fargli del male. Senta, signora Bardot, ecco, ma c'è un'epoca nella quale lei avrebbe desiderato vivere piuttosto che in un'altra? Certamente non in questa qui. Non so cosa ci sto a fare. Io non sono assolutamente fatta per vivere in questo secolo. Non sono fatta per gli audiovisivi, tutti gli aggeggi elettronici, gli aerei, eccetera. Io sono fatta per delle cose molto più semplici, molto più umane, molto più a dimensione dell'uomo. Comunque non pensi che io sia diventata una vecchia signora inacidita che se ne sta tutto il giorno a ciabattare per casa. No, proprio no. Io amo molto la vita. Mi piace però un certo tipo di vita. Mi piace divertirmi, mi piace la buona cucina, ma la carne no, la carne non la mangio mai. Ecco, ma per Brigitte Bardot che importanza ha il denaro? Non si comprano gli incontri. Cioè, il denaro non compra l'essenziale. Voglio dire che non si possono comprare né la salute, né la bellezza, né la giovinezza e neppure l'incontro interessante. Dopo il giornale radio, la storia di Mix 24, curata da Marina Milone. Oggi raccontiamo la storia di Gigi Meroni, la farfalla granata che con il suo stile ha spiazzato i suoi avversari e fatto innamorare migliaia di tifosi.